innanzitutto gli interessi di Musk sono i suoi interessi imprenditoriali e affaristici. Abbiamo visto, noi come Italia siamo un banco di prova, visto che probabilmente, forse, comunque in base a quello che è emerso finora, potremmo essere il primo paese in cui Starlink diventa, diciamo, sistema internet di un apparato statale al di fuori degli Stati Uniti, o di pezzi di apparati statali al di fuori degli Stati Uniti. Questo ovviamente va tutto a vantaggio delle aziende di Musk. E poi questo è il primo interesse. Il secondo interesse è quello di, è sempre aziendale, ma nel senso di protezione dai regolamenti e dalle norme dell'Unione Europea. Infatti X, la piattaforma, l'ex Twitter, è attualmente sotto due procedimenti per le violazioni del DSA, cioè il Digital Services Act, che è il regolamento sui servizi digitali. Musk è imputato, diciamo, X è imputata di avere di poca trasparenza verso gli utenti, e poi anche di non fare abbastanza contro la disinformazione, cosa che è abbastanza autologica per chiunque frequenti la piattaforma. E nel caso in cui l'istruttore dovesse andare a termine, cioè quindi vengano confermate le responsabilità di X e le violazioni di DSA, si parla di una multa fino al 6% del fatturato globale. E X, come ha ammesso lo stesso Musk, naviga in pessime acque finanziarie. L'ha messo in una mail poi leakata, cioè filtrata alla stampa. Ha perso, mi pare, l'80% del suo valore d'acquisto, che era di 44 miliardi di dollari. Quindi la pubblicità si è ridotta tantissimo, quindi una multa del 6% sarebbe un colpo, praticamente del fatturato globale, sarebbe un colpo molto duro da digerire. E poi il terzo, e qua è molto collegato ai primi due, il terzo interesse di Musk è quello di, diciamo, portare avanti un'agenda politica e soprattutto spingere i partiti di estrema destra, che in qualche modo poi possono aiutarlo a proteggersi dal DSA e dalle regolamentazioni, dalle norme europee. In questo senso, chiaramente, è chiaro che la scelta sia ricaduta su partiti euroscettici, quindi AfD in Germania, Reform UK nel Regno Unito, Lega e Fratelli d'Italia in Italia, e così via, e Vox in Spagna. Quindi c'è chiaramente diciamo che Musk sta cercando di, con questo specie, chiamiamolo così, movimento slogan mega, di portare a termine quello che aveva già provato Steve Bannon, l'ex consulente strategico di Trump durante il primo mandato, che era un po' quello di federare i sovranisti in Europa. E all'epoca il movimento di Bannon non era riuscito, perché fondamentalmente non aveva abbastanza risorse finanziarie e non aveva un capitale politico abbastanza spendibile presso l'estrema destra europea, o comunque i nazionalisti europei, e quindi non è riuscito a federare alcunché. Musk ovviamente in una posizione diversa, non solo perché ha disponibilità economiche ingentissime, ma soprattutto perché in questo momento ha un ruolo di estremo rilievo all'interno dell'amministrazione Trump, e quindi la situazione è molto di, tra l'altro, poi anche la situazione politica è molto diversa rispetto al 2018, nel senso che molti più partiti sostenuti da Musk sono o al potere o alle porte del potere. Quindi fondamentalmente questi sono gli interessi di Musk: proteggere le sue aziende, fare affari e portare avanti un'agenda politica globale di estrema destra. Potremmo dire che lo scenario è quello di una sorta di internazionale nera, però per la prima volta a scopi economici? Sì, più che internazionale nera, un'internazionale maschiana, diciamo così. Poi non so quanto, se riuscirà, quanto andrà avanti, perché comunque già nel tentativo di Bannon si era capito molto bene che i nazionalisti in Europa non si fanno dire da altri nazionalisti come devono comportarsi. Tra l'altro poi bisognerà vedere anche con la questione dei dazi come si metteranno le cose, perché è chiaro che non è possibile che da un lato Trump ti colpisca e dall'altro Musk ti sostenga, cioè chiaramente una contraddizione in termini. Quindi diciamo che il tentativo è sicuramente quello, però ci sono tante variabili da tenere in conto, e forse la più grande variabile è, direi, anche personale, cioè fino a quando Musk e Trump andranno d'accordo, fino a quando le loro agende saranno allineate. Questo è un altro grande punto interrogativo, anche perché sappiamo che i personaggi hanno un ego abbastanza misurato e hanno dei caratteri particolari. Quindi, però, il tentativo è sicuramente quello di federare il sistema destra in Europa sotto il cappello protettivo del più grande tecno-oligarca al mondo.